Decisamente Nicolito è sfortunato, nella sua vita troppe donne l'han lasciato, il poveretto dimagrisce dal dolor. Nicolito no, Nicolito no. Mio caro amico, voglio dirti in confidenza, alle ragazze tu fai perdere la pazienza, se ho ben capito non sei furbo nell'amor. Nicolito no, Nicolito no. Nico Nicolito, Nico Nicolò. No, non t'arrabbiare pensando all'amor. Nico Nicolito, Nico Nicolò. Pensa alla salute ballando il baio. Or sono 4, 5, 7 settimane, è capitato a Nicolito di incontrare una fanciulla che di colpo l'invaghì. Nicolito sì, Nicolito sì. Per qualche tempo il nostro amico fu felice, sembrò trovare finalmente un po' di pace, ma l'altro giorno pure quella gli fuggì. Nicolito sì, Nicolito sì. Nico Nicolito, Nico Nicolò. No, non t'arrabbiare pensando all'amor. Nico Nicolito, Nico Nicolò. Pensa alla salute ballando il baion. Anche l'amore qualche volta è fatta scale, chi è molto scaltro facilmente può salire, chi non è furbo invece casca sempre giù. Nicolito tu, Nicolito tu. Amico bello, con le donne molto meglio, non tralasciare questo piccolo consiglio, quando sei stanco cerca di squagliarti tu. Nicolito tu, Nicolito tu. Nico Nicolito, Nico Nicolò. No, non t'arrabbiare pensando all'amor. Nico Nicolito, Nico Nicolò. Pensa alla salute ballando il baion. Nico Nicolito, Nico Nicolò. Pensa alla salute ballando il baion. Nico Nicolito, Nico Nicolò.